Ciao a tutte e tutti, stamattina con Mala Radio siamo state nella nuova occupazione di Ci Siamo, in via Fracastoro 8, in zona via Padova. E lì abbiamo parlato con gli abitanti di questa nuova occupazione, che per ora prevalentemente un'occupazione abitativa, è composta per lo più da famiglie immigrate, e che ci hanno raccontato come sta andando in questi giorni di questa nuova occupazione e in generale com'è andata dopo lo sgombero di quest'estate di via Iglesias 27. Buon ascolto e per qualsiasi cosa potete scriverci su Facebook a Mala Radio oppure seguirci su Telegram o scriverci sempre per messaggi a Telegram, Signal o i vecchi SMS, insomma, al 351 91 82 889. Ciao a tutte e tutti, siamo qua nella nuova occupazione di Ci Siamo, in via Fracastoro 8. E niente, volevamo un po' farci raccontare dagli abitanti come stanno e non lo so. Buongiorno, io sono Melissa, una delle persone che sto sgomberata da Iglesias 26. Niente, poi siamo andati quel giorno il 24 di giugno, un sito è sgomberato con tantissimi polizie, ha buttato tutti fuori con tanti bambini. Poi siamo andati a un'altra occupazione dell'Iglesia 6, però lì quel posto non era buono, siamo stati lì quasi 2 mesi senza acqua, non era abitabile per noi con bambini. E adesso siamo qua in via Frankstor 8 e speriamo come va qua in questo posto, perché siamo tante persone con bambini, speriamo rimanere e parlare bene con il proprietario di questa casa, aspettiamo la sua comprensione e anche il suo aiuto. Perché non si è ancora fatto vedere. Sì, ancora stiamo aspettando per metterci d'accordo con loro, cosa diranno loro. Niente. Buongiorno, sono Elisabeth, sono un abitante di Via Siusi dell'altra occupazione, però pertenezco a Ci Siamo. Niente, praticamente è vero che mi dice la mia compagna che anche io abitavo in Via Iglesias il giugno che sono stati sgomberati e niente, abbiamo dovuto cercare un altro posto per abitare, il mio compagno, tutti i miei compagni, e abbiamo trovato, come dice lei, l'iglesia, ma non è stato buono perché non c'era il servizio dell'acqua, quindi siamo venuto in un altro posto che è Fracastoro all'Otto e lì stiamo, come dice lei, stiamo cercando di parlare con il proprietario, però adesso stiamo tutti i bambini a posto, tranquilli in questa casa dove c'è l'acqua e c'è la luce. Niente, siamo contenti di stare qua, siamo tutti contenti, siamo tutti felici e niente, aspettiamo che sia tutto bene. C'è qualcosa di cui avete bisogno che magari non so chi ci ascolta può portare? Sì, qua adesso vi segniamo quasi tutte le coperte, anche adesso non c'è le stufa per riscaldare, le cose di cucina, sono qualsiasi l'aiuto che vogliono aiutare a noi, saremmo ringraziati. Ok, quindi qualsiasi cosa può essere utile, lo ripetiamo. Quindi anche stufette, magari, Sì, coperte, quello che può servire anche per la la cucina. Sì, tutto quello che abbiamo cucina, tutto bisogno sarà della casa, benvenuto. praticamente in inglese si è rimasto tutto che era nostro, cioè non hanno lasciato tirare fuori quello, vestiti, tutte tante cose che praticamente è prima necessità per noi. E quindi ringraziamo a tutti che vogliono darci una mano a portare tutto quello che abbiamo bisogno in una casa e niente, grazie a tutti. Puoi fare sia in arabo che in italiano, però nessuno. Se ci vuoi raccontare, sì, buongiorno a tutti, sono Tarek, vengo del Marocco, sono come degli altri stranieri che cercano da migliorare la sua vita. E siamo sgomberati nel posto della Via Iglesias 27 con la polizia, hanno fatto da spaventare tutti i bambini che vivono lì e adesso... meno male abbiamo trovato un gruppo solidale, ci siamo, che hanno dato la forza per trovare un altro tetto. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato per aprire questo posto e grazie a tutti. E serviamo ancora qualche aiuto, le stoffe, le coperte, ancora perché arriva un freddo. Stiamo aspettando il proprietario di questo posto, cosa fa? Allora, non ancora abbiamo nessuna parte dove andiamo. E lottiamo per le case, anche i documenti, e la residenza, anche la cura di salute. Non abbiamo niente, non abbiamo... siamo noi immigranti, non abbiamo niente in questo paese, niente di diritti, niente. E speriamo bene davanti. E grazie a tutti. Grazie. Che oltre a questa occupazione ci dicevate che ce ne sono altre, ci siamo, giusto? Sì, come si chiama? In via Siusi? Noi praticamente abitanti, collaboratori che vengono de fuori, cioè, abbiamo fatto un progetto, stiamo facendo tanti progetti. Primo, un progetto è fare un studio di musica, perché sono ragazzi che le piace la musica, le piace suonare e lì almeno si allenano, praticano, fanno questo, no? E poi un altro che abbiamo pensato e parlato di un spazio per bambini, per bambini tipo un asilo, che ci sono delle mamme che hanno bambini piccoli, lo possono lasciare lì e poi andare magari a fare qualche 2 ore, 3 ore e noi teniamo i bambini lì. Cioè stiamo, sì, molto bello. E poi questo è un progetto che si farà più o meno un pochino più avanti. Poi l'altro progetto che già praticamente iniziato quasi un mese è dello sportello di migrazione. Quelli lì stiamo facendo 2 volte alla settimana, che si fa, che viene gente anche di fuori, anche noi che ci siamo, se possono, quello che hanno problemi con i documenti, della residenza, di qualsiasi tipo di legale, possiamo venire al sportello e così c'è Sara e c'è un altro compagno che fanno aiutano a fare a vedere queste cose. Ah, bene. E poi mi dicevano che c'è anche chi organizza anche... poi oltre allo sportello immigrazione c'era anche la scuola di italiano, giusto? Sì, vero, la scuola di italiano che lo facciamo ogni lunedì per tutti i migranti, anche per tutta gente anche fuori, dentro del gruppo, possono venire il lunedì alle 5:30, 6, fino alle 7:30. Bene, quante cose. Sì, tante. Poi è vero che c'è anche un'altra occupazione, ci siamo però sempre. Sterle. Esatto, come le sterle. Sì, via sterle. Dove vivono anche lì un po' di persone. No, vivo, è un'occupazione abitativa. Ah sì, in via Sterle c'è un'altra occupazione che l'ingresso dove ci siamo, dove ci siamo. Lì facciamo la riunione che è giovedì alla 7:30. Lì mettiamo d'accordo tutte le persone che abitano lì, anche tutti ci siamo il giovedì la riunione. Mettiamo d'accordo come devono fare, seguire avanti con questo progetto della lotta, dei documenti, di tutti. Certo. Certo, perché c'è la questione abitativa, quindi sì, la necessità di occupare, che poi però diventa anche, no, un modo per vivere insieme, però giustamente c'è anche la questione dei documenti, poi insomma del lavoro, tante persone che conosciamo lì ce ne avevano parlato, no? Chi fa i rider, chi lavora nei campi, chi non trova lavoro. Parla quei giorni. Si cerca di affrontarlo assieme. Tutto il gruppo quei giorni alla riunione. Sì, anche perché poi la questione, il discorso insomma delle occupazioni, della residenza, non è solo avere un posto da abitare, che ovviamente non è poco, ma visto che prima l'amica raccontava di questo spazio per i bambini, per esempio, no? Cioè, sapevamo che ci sono stati sempre tanti problemi, no? Per esempio nel portare i bambini a scuola, perché senza residenza è difficile farli entrare all'asilo, quindi insomma poi si chiedono tanto documenti per mettere il figlio all'asilo, ti chiedono la carta d'identità che non l'abbiamo, e la residenza neanche. Certo. Con senza documento non si può fare niente, neanche lavorare. Sì, sì, neanche portare un bambino all'asilo. No, non si può fare così. E anche la salute è difficile. La salute è troppo difficile, ti chiedono anche la sanitaria, tutto quello. Speriamo che vada bene avanti. E niente. Che la luce sigue. Siamo qui, siamo i vostri vicini di Iglesias. Siamo nati come ci siamo 6 anni fa, con l'obiettivo di realizzare per tutti una vita degna di essere chiamata tale, riconquistando quella dignità che ci viene negata quotidianamente. Il nostro gruppo è formato da lavoratori immigrati di diverse etnie e nazionalità, da amici e compagni italiani accomunati dalle stesse condizioni di sfruttamento, ingiustizia, repressione, imposte da questa società capitalista che calpesta i bisogni dell'uomo, non rispetta la terra e l'ambiente, perché l'unico interesse che la muove è quello del denaro, del profitto. Insieme ci confrontiamo sui problemi che viviamo, la mancanza di alloggi, la precarietà e lo sfruttamento che incontriamo sui posti di lavoro e le condizioni di semischiavitù a cui siamo sottoposti, le difficoltà di accesso al sistema educativo e sanitario, i ricatti che dobbiamo accettare per avere un documento ed essere così regolari, tra virgolette, la drammatica situazione che si vive nei nostri paesi di origine. Vogliamo dare voce a chi voce non ce l'ha, non solo a noi stessi, ma a tutti i lavoratori immigrati e non, perché le condizioni in cui si lavora, si vive, ci si cura, si va a scuola, i ricatti e la repressione che si subisce quando si alza la testa sono le stesse, così come è la stessa la necessità di pensare ad un mondo, una società in cui le persone siano rispettate, dove non ci siano disuguaglianze, sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dove il soddisfacimento dei bisogni primari sia garantito e con esso la felicità. Per questo noi, uomini, donne, bambini del mondo, gridiamo con una sola voce: basta emarginazione, basta licenziamenti, basta morire per e sul lavoro, basta non avere una casa dove vivere. Vogliamo casa, lavoro, una vita dignitosa, essere regolarizzati per poter combattere sfruttamento ed ingiustizia. Non vogliamo più essere costretti a vivere in condizioni precarie, in case insalubri, fatiscenti, o essere esposti, per mancanza di un documento, a rastrellamenti e brutali carcerazioni, come nei CPR, centri di permanenza per il rimpatrio o centri di espulsione. Veniamo spesso sgomberati dagli edifici abbandonati, che ristrutturiamo e rendiamo abitabili a nostre spese e con il nostro lavoro, dai luoghi in cui i nostri figli frequentano gli asili, le scuole e in cui abbiamo costruito rapporti sociali e solidali con il quartiere. Questo non è accettabile se solo per un momento si riflette su quello che solo la città di Milano potrebbe offrire al bisogno di casa che affligge 20.000 famiglie immigrate ed italiane che aspettano l'assegnazione di una casa popolare, 70.000 alloggi privati, 9.000 alloggi pubblici vuoti. Ed invece di rispondere a questo bisogno, a queste necessità, si continua a speculare, infiocchettando questa città con progetti edilizi, i cui prezzi di affitto e di vendita sono accessibili solo a pochi. Per questo ribadiamo il diritto alla casa, ad un'abitazione, come è per te, per lui, per qualunque essere umano. Per questo, a questa da troppi anni chiusa, che diventerà la nostra casa, si è ridata vita e ridato uno scopo, essere abitata. Vi invitiamo a condividere con noi questo momento di riscatto sociale, di conquista, di dignità.